Pochi Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Penso che ci sono ancora 31 partite, no? 31 partite, se non mi sbaglio, è 93 punti. 93 punti può succedere tutto. Continuare la serie è il nostro obiettivo e questo mi va bene, perché così solo pensiamo a giocare la partita prossima. Napoli e Roma, per me Roma e Inter hanno questo vantaggio di giocare una partita alla settimana, sarà così fino al fine, e questo è una cosa chiara, ma ancora Milan, Fiorentina e soprattutto Juve sono le squadre che saranno di là, non credo che sarà due squadre, penso che saranno 4-5 squadre fino alla fine. Io dico che quest'anno sarà molto difficile, perché quest'anno sarà molto difficile farci vincere il terzo scudetto consecutivo, questo sono straconvinto, perché le altre si sono rinforzate tante, da parte nostra ci vorrà grande cattiveria, grande ferocia, e dopo due anni non è detto che la si abbia sempre. In più, ripeto, si cercherà di cambiare un po' la monotonia, no? Dopo due anni di vittorie, noi lì dovremmo essere molto molto bravi. Chi non se lo ricordasse, questa è la musica della Grande Fuga. 800240024, Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, Pierluigi Pardo, buongiorno. Buongiorno, come va? Benissimo. Allora, botte gol a Torino, la tanto spernacchiata Juventus è a 6 vittorie e un pareggio ottenuto a Milano con l'Inter. Il Milan è a 13 punti dalla Roma. Il ridimensionamento dell'Inter mi sembra abbastanza fisiologico. Ho l'impressione però che ci si stia un po' spagnoleggiando. Il 7 ottobre, leggo la classifica, Roma 21, Napoli, Juventus 19, tutte le altre molto sotto, Inter 14, Verona 13, eccetera, eccetera, eccetera. Intanto, come se non bastasse, Prandelli ha appena detto Totti, quando lo dicevo io, è un Totti fantastico. Se fossimo nell'immediato del Mondiale, oggi sarebbe nel gruppo, assolutamente sì. Cosa dici? Ma dico che Prandelli ha fatto una scelta di campo molto precisa e molto giusta, nel senso che Totti non è che non c'è bisogno di portarlo in nazionale per vedere come gioca, non ha bisogno di abituarsi alla maglia azzurra o al gruppo, e quindi Prandelli credo che abbia detto una cosa dalla quale non difficilmente potrà tornare indietro. Mi sembra sempre molto, molto democristiano Prandelli. Tu Beh, mi no, dai del democristiano? No, sì, ma secondo me è molto populista. Oggi parlare di Totti in nazionale mi sembra potrebbe essere un plebiscito, Pierluigi, dai. Guarda, io ho appena iniziato un sondaggio, poi ti dirò come sta andando su Twitter, sì. Premesso appunto che non è che c'ho il campione statistico rappresentativo della nazione, però vediamo come va. No, io penso che da una frase così non si torna indietro, cioè se Totti continuerà a questi livelli a maggio, insomma, faranno sentire le registrazioni e Prandelli lo convocherà. Ma penso che sarebbe anche nel suo interesse. È un giocatore comunque di 37 anni, non bisogna farlo stancare più di tanto con le amichevoli, perché di fatto queste due partite sono due amichevoli della nazionale, e se però dovesse tornare in queste condizioni, io credo che oggi ci sia notizia, cioè io credo che questo che ha detto Prandelli, per come l'ha detto, è titolo, è notizia. Sì, sicuro. Non si torna indietro, non penso che sia un modo, cioè avrebbe voluto dire vedremo come arriverà. Però dai, oggi è facile, oggi è facile, se tu vuoi raccogliere consensi dici Totti in nazionale, dai, oggi è facile. Vabbè, ho capito, poi siamo 7 ottobre, poi vediamo, secondo me certo che è notizia, però mi sembra un Prandelli, ripeto, molto democristiano. Ma non lo so, cioè ecco, intanto il sondaggio è 86-18 per quelli ma che è ovvio, con Prandelli, ma vabbè. È ovvio, ma certo che è ovvio, però io dico che per il modo nel quale l'ha detto, secondo me tornare indietro sarà difficilissimo. Poi bisognerà capire ovviamente se Totti terrà questa qualità, fino alla fine, perché insomma è umano pure lui, ha 37 anni, ci può anche stare che non riesca a tenere questo tipo di qualità nelle 38 partite, però se la dovesse tenere, secondo me a quel punto Prandelli lo convoca sicuro. Allora, 800240024, c'è Ettore tassista di Milano che ti sta cercando, eh? Sì, l'ho visto l'altra sera a San Siro, prima della partita, mi ha raccontato che ha effettivamente giocato i 500 euro, tra l'altro noi invitiamo a gestire i propri soldi in maniera oculata, ecco, lo diciamo proprio in assoluto, credo sulla vittoria dell'Inter, non è andata benissimo. No. Ci sentiamo dopo il traffico, eh? Intanto abbiamo il Milan che fa una brutta figura, la Roma, che questa è la vera notizia, è bellissima, dicevamo, il Napoli che metabolizza il turnover, gli arbitri, Bologna e le genovesi che fanno un po' di tristezza, Roma-Napoli che si gioca venerdì 17 alle 20.45, quindi meno di 24 ore prima rispetto al momento stabilito, che era, ricordo, sabato 19 alle ore 18. A proposito di soluzioni un po' democristiane, a dopo. Se prima dei mondiali questo Totti ha questa condizione fisica, siamo obbligati a tenerlo in considerazione. Tutti convocati. Pier, io vorrei far sentire a loro signori che stanno già intervenendo in massa, 800240024, per non farci mancare niente, anche cosa ha detto Conte ieri, una dichiarazione che io francamente non riesco a capire, questa. Oggi si tende comunque a cercare di intaccare la serenità, la fiducia di questo gruppo, dei giocatori, anche quando fai una partenza così importante, così lanciata come abbiamo fatto quest'anno. Però sinceramente vedere una critica così esasperata, così avvelenata, nonostante si sia fatto quello che abbiamo fatto l'anno scorso, cioè stupisce, però stupisce gli altri, me no. Pierluigi, mi fai una traduzione? La traduzione è che Conte sta giocando, lo diciamo dall'inizio dell'anno, sta giocando un po' alla Mourinho, sta giocando giustamente, legittimamente, con tutte le leve psicologiche che ha a disposizione. Ma perché vuole tenere la squadra sulla corda, perché in certi momenti ha attaccato dei comportamenti come la famosa uscita di Pirlo senza salutare, in altri momenti invece avvicina la squadra e in alcuni momenti attacca la società perché vuole lanciare un segnale che non è soddisfatto del mercato e in altri invece attacca l'esterno. Io credo che oggi il ruolo dell'allenatore in un calcio così mediatico è sempre di più un ruolo anche mediatico. Mourinho è stato da questo punto di vista l'esempio più travolgente e Conte sta facendo delle cose simili. Ma ripeto, in maniera completamente legittima, insomma, io penso che è chiaro che la Juve è partita molto bene se guardiamo i numeri, certo. In Europa però ha faticato, e siccome noi commentiamo ogni volta le singole partite e soprattutto siccome siamo abituati a una Juve eccezionale, quella degli ultimi due anni, qualcosa in meno si è visto. Tanto ieri ha asfaltato il Milan al di là del punteggio, perché è stata una partita resa molto strana da un gol, cioè dal fatto che si sia partiti sull'1-0, un 1-0 che non aveva ragione di essere perché è arrivato dopo 19 secondi. Certo. Matteo Modena, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo intervenire per il discorso di prima di Totti in nazionale. Io, anche se adesso è molto presto, io sono convinto che Prandelli, uno tra Di Natale, Cassano e Totti, lo porterà come matta all'ultimo momento da utilizzare magari a gare in corso. Sono giocatori comunque di una qualità così elevata che potranno essere utili nonostante gli anni. E sì, Matteo, me... però allora convocare Di Natale va bene, è un giocatore di calcio. Cassano sappiamo bene quello che si porta dietro. Totti non è convocare un giocatore di calcio, è convocare il Circo Togni, secondo me. Dal punto di vista mediatico. Ma perché? No, perché? Perché Totti... sai cosa ti porti dietro insieme a Totti? Ma allora, a parte il fatto che Totti adesso sta vivendo questa fase, diciamo, di beatificazione nazionale, ma fino a qualche tempo fa era considerato chiaramente un giocatore romano, romanista e quindi comunque di una realtà molto ben identificata, cioè non è il Baggio dei tempi d'oro, è un giocatore che ha giocato in una squadra sola e come tale è molto polarizzante, nel senso che i romanisti lo amano tantissimo e gli altri magari meno. Adesso sicuramente per quello che sta facendo, per la grandezza di quest'ultimo anno e mezzo, sta diventando probabilmente più, ancora più nazional popolare. però ma qui parliamo secondo me di tecnica, poi lì ci sono discorsi chiari, è chiaro che chiunque, io sono d'accordo con l'ascoltatore, chiunque di questi tre dovesse venire convocato sicuramente riceverebbe da parte di Prandelli un bel discorsetto che può giocare, può non giocare, può entrare a 20 minuti dalla fine e magari fare la differenza, se ci sta a queste condizioni bene, se non ci sta probabilmente non se ne fa nulla. Io non credo che sia un particolare problema questo, sinceramente. Mi sembrano tutti e tre maturi da questo punto di vista, insomma. Di Natale è abituato da una vita a fare il part-time in nazionale. Totti, se fosse realmente motivato, secondo me lo accetterebbe come una sfida. Quello col quale ci può essere qualche dubbio in più può essere Cassano, ma insomma, credo che da quel punto di vista, se si parlano, visto il rapporto che hanno, non ci sarebbero grandi problemi. Sì, Cassano tra l'altro ieri ha detto, Cassano, Donadoni ha detto una cosa interessante su Cassano, lo sentiamo? Sì, proprio da noi. Sì. Sta lavorando bene, da quello che era il Cassano dell'inizio del ritiro ad oggi ha perso minimo, come minimo 7 kg e mezzo, e quindi questo dimostra la volontà che lui ha nel mettersi di nuovo in discussione, volersi dimostrare ancora una volta agli occhi di tutti il campione che è. Pier, nessuno, cioè pochi lo conoscono bene come te, poi bisognerebbe capire questi 7 kg, ma anche questa mi sembra abbastanza una questione di lana caprina, no? Se Cassano, sappiamo, ha la tendenza a incicciottirsi un po', dovrebbe capire quanto pesava l'anno scorso, eccetera, che sia in un ambiente per lui ideale, credo che non ci sia dubbio, no? Cassano è tornato a lavorare con il preparatore che aveva ai tempi della Samp, sì, è quello che lo conosce meglio di tutti ed è quello che ha fatto su di lui un lavoro specifico che ha portato a dei grandissimi risultati. Se noi escludiamo la fase adolescenziale, diciamo, quella dell'inizio della sua carriera a Roma, e parliamo, diciamo, del Cassano adulto, le cose migliori in termini di continuità secondo me le ha fatte la Sampdoria. Ma poi certo, ci sono stati dei lampi al Milan e all'Inter, e il motivo è stato secondo me di natura prettamente fisica, e secondo me ha buone probabilità di tornare a fare una grande stagione, anche perché da quello che so la preparazione è stata fatta proprio per poter durare a lungo, quindi non per partire fortissimo, ma per avere una durata lunga per tutta la stagione. Quindi i risultati si cominciano a vedere, fino a qualche partita fa, insomma, il contributo. Il problema di Cassano è uno: Cassano fa troppi assist, ma questo è una sua perversione. Cassano, se deve scegliere se tirare in porta o passare al compagno, la passa al compagno, e questo secondo me gli toglie mediaticamente un po' di visibilità, perché poi, insomma, se sei nelle prime posizioni della classifica canonieri è più difficile non sarebbe lui, il veneziano per definizione. Certo, bizantino come nessuno. Vincenzo, provincia di Pavia. Sì, buongiorno, dica. Allora, due cosine. Allora, una su Totti. Ho sentito prima le dichiarazioni di Prandelli e non ha parlato solo di Totti. In realtà ha detto anche qualcosa su Cassano. Ha detto su questi personaggi, chiaramente nulla da dire, aspettiamo un attimino. Mi sembra abbastanza disponibile, diceva, questo atteggiamento quasi democristiano, sì, e mi faceva sorridere. In effetti può essere così, però oggettivamente vedere Totti giocare a questi livelli, però, ma io non sto discutendo Roma. Questo io lo porterei per principio Totti ai mondiali, non sto discutendo questo. Avevo compreso male io, ma ci mancherebbe altro, io lo porterei per principio Totti ai mondiali, perché non vedo giocatori italiani più forti di lui. Poi oggi, di quello che dico, è 7 ottobre, dire se va avanti a questo livello lo portiamo in nazionale, va bene, ok, consensi, Pierluigi sta tenendo il conto, cioè sfido chiunque a non essere d'accordo, sì, con Prandelli. Però gli fanno una domanda e lui come deve rispondere? Cioè, lui poteva rispondere democristianamente dicendo vedremo. Invece in realtà la risposta l'abbiamo già forzata noi giornalisti, perché l'abbiamo sentita prima, no? La risposta è lo terremo in considerazione, che non è esattamente equivalente a convocarlo, però è comunque un'apertura, quindi giornalisticamente secondo me quella tradurre in sarà convocato secondo me non è sbagliato. E secondo me non è democristiano. Posso essere d'accordo che in questo momento questo tipo di situazione riscontri il gradimento popolare, ma è una presa di posizione molto precisa, molto chiara, cioè dalla quale, ripeto, non si torna indietro. Cioè, se Inter-Roma fosse stata l'ultima gara di campionato e sì, ci fossero adesso le designazioni da fare, Prandelli, con quello che ha detto, Totti lo deve portare, altrimenti fa poi una figura di uno che ha sbagliato. Insomma, senti Pier, un'altra cosa, dopo la borsa avremo anche un ospite per discuterne più a lungo, ma secondo te, come scrive un ascoltatore, questo è il peggior Milan dell'era Berlusconi? Te lo dico adesso o te lo dico dopo? No, dimmelo adesso, così... è uno dei peggiori, è in linea con i peggiori. Sì? È in linea con i... Beh, c'è stato anche di peggio, insomma, c'è stato l'anno del Tabárez, Capello, che è stato molto, molto negativo. Ci sono stati... Adesso poi la memoria è corta. È chiaro che il Milan salirà. Detto questo, secondo me, diciamo, l'equivalenza con l'anno scorso non regge, perché l'anno scorso il campionato ha aspettato il Milan, quest'anno c'è, cioè, questo triumvirato. Il Milan, il problema del Milan non è essere a meno 13 dallo scudetto, è essere a meno 11 dalla zona Champions. Sì, questo è verissimo. E come invece interpreti, prima ti ho chiesto una traduzione del discorso di Conte, adesso ti chiedo una traduzione delle dichiarazioni di questa mattina di Galliani. I 13 gol subiti sono tantissimi, solo Sassuolo e Bologna ne hanno presi più di noi, dobbiamo lavorare sulla difesa. È semplicemente una dichiarazione come tante o necessita di traduzione? No, non necessita di traduzione, solo che dovevano pensarci prima, sinceramente. Insomma, discorso, direi, no? Tipo disco rotto continuamente. Fra l'altro, adesso, insomma, la squalifica di Maxès renderà ancora più complicata questa situazione, perché quel minimo di equilibrio che l'anno scorso aveva trovato in difesa il Milan l'aveva trovato poi con la coppia Zapata-Maxès. Quindi adesso comunque levi un punto di riferimento, adesso, al di là dell'episodio bruttissimo di ieri, Maxès e di parecchie amnesie, Maxès nella difesa del Milan in questo momento, se non c'è, è un problema in più. Allora, borsa, poi torniamo. Io per Luigi Pardo, Luigi da Cosenza, 800 24 0024, per tutti quelli che risponderanno alla convocazione. Gita, buongiorno, sono Ettore. Allora, io sono un interista dalla Madonna. Pronostico per domani Inter-Roma. No, voglio il risultato, perché devo mettere su una cifra. Io no. Faccio 500 sul pareggio. Non so se mettere 500 o 1000. Tutti convocati. Pierluigi Pardo, parliamo con Luigi da Cosenza? Sì, ciao Carlo, ciao Pierluigi. Un saluto a Pierluigi, con cui ho avuto anche il piacere di lavorare nel 2006 durante un mondiale. Carambata! Un momento, carambata. Ciao, come stai? Tutto bene, Pier. Allora, io vorrei parlare del Milan. Sarò velocissimo, chiedo a voi due un parere su quello che è velocemente il mio commento. Partiamo dalla punizione, quindi da Abbiati, partiamo, poi arriviamo alle scemate di Maxès, sì, agli errori di Abate e Montolivo, all'attacco con Robinho e Matri, ok? Io devo chiedere scusa, perché qualche anno fa ero tra quelli che non vedeva l'ora che i vari Seedorf, Maldini, Dida, Gattuso smettessero, perché dicevano, sai, adesso sono anzianotti, facciamo spazzeggio... Sì. Io devo veramente chiedere scusa, spero che lo facciano anche quei tifosi che fischiavano a San Siro, perché erano prima signori e poi campioni. Sì, però non Luigi, però non si vive solo di ricordi, eh? No, ma infatti non sono ricordi. Chiedo scusa io a quei giocatori, perché magari bisognerebbe anche capire un po' quello che è stato poi il cambio generazionale, che qualcuno forse così è convinto di aver indovinato, ma per me sono state tutte scelte una dopo l'altra e si vedono i risultati adesso sbagliate. Poi un commento sull'allenatore, anzi un consiglio che do al signor Allegri, perché comunque ci ha fatto vincere un campionato il primo anno, bravissimo, ha gestito bene la squadra, però fossi lui io arriverei davvero a dare quelle dimissioni che lui aveva minacciato dopo la qualificazione Champions, per dignità, perché così non si rende più complice fino all'ultimo di questo scempio, perché è veramente uno scempio che secondo me si fa veramente, dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e dire abbiamo sbagliato tutto. A gennaio è inutile andare a mettere davvero una pezza, perché non so poi dove andarle a mettere, perché ripeto, si è preso Matri per 15 milioni, la Roma ha preso Strutman per 16 più 3. Voglio capire, insomma, le scelte. Poi Galliani che dice prendiamo gol, noi Carlo ci siamo sentiti qualche tempo fa, diciamo erano le prime due giornate dei campi, parlai della difesa dicendo proprio che non capivo come mai si erano fatte delle scelte, e alla fine adesso esce Galliani e dice ah sì, in difesa dobbiamo preso 13 gol e sono più bucherellata del campionato. Pier, giriamo la considerazione al nostro ospite, cosa dici? Sì, assolutamente sì. No, una cosa in 30 secondi, che un po' di questa nostalgia immagino che sia dei tifosi del Milan in questo momento, e che io vedo una squadra fin dalle prime uscite molto nervosa. Anche quando le è andata bene, anche quando è riuscita a non perdere le partite, ma vedo una squadra in campo abbastanza nevrastenica, e insomma comincia a essere un dato politico oggettivo questo, che in 7 partite ci sia stato questo tipo di atteggiamento, non è mai un bel segnale. No, non lo è. Franco Ordine del Giornale, ciao Franco. Eccomi qua, buon pomeriggio. Come va? Bene, tutto a posto, ti aspetto a Tiki-Taka stasera, è un momento di autopromozione. Prego, andiamo. Dimmi la tua. Ma, Ma guarda, la mia è molto semplice. A proposito del nervosismo citato prima da Pierluigi, secondo me c'è un problema legato proprio alla frustrazione. Cioè, a un certo punto, quando quando la fatica toglie la lucidità, perdono i freni inibitori. È successo a Balotelli, è successo a Betsess, non succede ad altri perché probabilmente hanno altro carattere, altro temperamento, ma è una situazione complessiva che è, diciamo, determinata dallo stesso sentimento provato dai tifosi. Però Pierluigi non ha torto quando dice che questo atteggiamento nevrastenico, poi al di là del carattere dei singoli giocatori, è un po' preoccupante, eh? No, è in definitiva uno dei motivi e uno degli allarmi rossi che deve scattare, che deve far capire di che cosa si tratta. Si tratta proprio di frustrazione, quindi si tratta di quel sentimento che interviene quando le cose vanno male e capisci e ti rendi perfettamente conto che non riesci in nessun modo a rimediare e che quindi procura e provoca una sorta di cortocircuito a livello di testa. Questo è quello che sta accadendo nel Milan, perché ed è la conseguenza di tutta una serie di deficit e inadempienze che cominciano con la squadra, cominciano con il mercato. La vicenda di Matri, voglio dire, da questo punto di vista è significativa, e si concludono magari anche con la classifica. Non credo che ci siano molte responsabilità da parte dell'allenatore, perché obiettivamente con quel po' di carneficina che ha nello spogliatoio diventa difficile rimediare. Sì, onestamente. Anche ecco. Se oggi tutti danno la colpa a Allegri, sei soddisfatto Pierluigi? Sì, sono soddisfatto. Allegri starà pensando: ma chi me l'ha fatto fare? Perché comunque lui era stato veramente a un centimetro dalla Roma. E magari adesso i tifosi della Roma si sentiranno molto più soddisfatti della soluzione Garcia. Però insomma, era chiaro che c'era una fiducia a tempo nei confronti di Allegri, era chiaro che dovevano esistere delle garanzie tecniche che sono arrivate probabilmente soltanto in parte. Allegri è un incassatore, è anche vero che il Milan, con la struttura che ha, con la forza che ha, con la tradizione che ha, è un posto che ti induce a essere un incassatore. Franco conosce benissimo ovviamente Ancelotti, che è stato uno dei più grandi incassatori della storia rossonera, nonché un grandissimo allenatore. È chiaro che è una società che ti fa sentire protetto e che quindi tante volte ti porta a non sbroccare, come diciamo noi a Roma, ma a accettare serenamente, anche se il mercato non ti dà esattamente quello che vuoi. Però so che il Milan deve darsi una svegliata dal punto di vista della ricostruzione della squadra, mi sembra evidente, e mi sembra che stia anche un po' scadendo il tempo di Matri, che magari adesso si sbloccherà, però mi giunge voce che cominci a essere un po', al di là della ripresa di Allegri, un po' un caso. Ma quando si deve sbloccare? Ma voglio dire, al di là del fatto se si sblocca o no, è proprio... avrebbe potuto fare anche gol ieri sera, ma se gli fosse arrivato un pallone decente, tra l'altro aperta e chiusa parentesi, ma quello che non va bene, quello che denota la povertà della cifra tecnica, che nella Juventus era stata in qualche modo tra virgolette nascosta e contrabbandata grazie alla produzione di gioco, di occasioni e diciamo anche di atletismo, è proprio la miseria dal punto di vista del cioè non riesce a tenere un mezzo pallone, anche dal punto di vista fisico, che pure non è un fuscello, non riesce a vincere un solo duello. Insomma, tutto questo mi sembra obiettivamente come dire, qualcosa che va affrontato, che va risolto. Naturalmente, come diceva prima il nostro radioascoltatore di Cosenza, non si può mica pensare che a gennaio tu possa produrre chissà quali magiche correzioni. Però voglio dire, non si può nemmeno dire che Allegri non abbia nessun tipo di responsabilità. Sono d'accordo che il materiale a sua disposizione non è il massimo della vita, però non possiamo neanche dire, vabbè, ma poverino, non è mica colpa sua in nulla. No, io dico che non è tutta colpa sua, e comunque responsabilità sono ridotte. Per me al 10%, guarda, nella peggiore delle ipotesi. E poi vorrei dire una cosa su Chiellini, se fosse possibile. Sì, come no? Dilla. No, su Chiellini dico, Chiellini ha ragione L'unica cosa che non può essere consentito a Chiellini e tutti i Chiellini che popolano il campionato di calcio italiano, nessuno può fare la morale. Mettiamoci in testa una cosa: non è consentito a chi tirava i capelli e tirava i cazzotti a Cavani non 10 anni fa ma l'anno scorso, a nessuno è consentito fare il moralista. Sei d'accordo, Pierluigi? Beh, sono d'accordo che in campo le cose succedono e poi ormai siamo in un'epoca di immagini, per cui ormai è difficile non pagare, no? È difficile, poi può anche succedere che l'arbitro non veda, ma poi tanto le telecamere ti smascherano. Ti stanano, sì, sì. Per sì. Cui, insomma, io, il gesto di Mexès è un gesto bruttissimo, però Mexès pagherà per questo. Io sono per un'idea massima del calcio. Uno ma poi, vita, scusate, ma poi... Il pugno gli arriva sul collo, mi dite che cosa fa il ghiaccio in faccia? Oh, questo, di queste ne abbiamo viste tante. Il fatto che il pugno gli arrivi sul collo, secondo me, fa poca distinzione. No, voglio dire il ghiaccio sulla faccia, cosa c'entra? Dai, su. Ragazzi, voglio chiedere ad entrambi, al di là dell'argomento Milan, quanto l'Inter esce ridimensionata da questo weekend? Poco, anche secondo poco. Me, sono d'accordo, molto poco. Perché la differenza tra l'Inter e la Roma la fa la qualità del gruppo, la qualità complessiva, ma il lavoro di Mazzarri non può essere messo in discussione, ha ridato dignità a una squadra, ha ridato test, geometrie, uno spartito di gioco a una squadra che quando ha cominciato a fare le cose che ha fatto l'anno scorso, per esempio tipo quella partenza di Jesus senza criterio, palla al piede, sì, da cui poi è nata la ripartenza romanista, allora appena si sono riaffacciati i vecchi difetti è precipitata nell'abisso, ma nessuno di noi poteva immaginare che l'Inter fosse già pronta per lo scudetto, ha bisogno di più qualità per esserlo. Sono d'accordissimo, grazie Franco Ordine, ci vediamo stasera a Tiki-Taka. Grazie. Ci vediamo stasera 23:25, fammi fare il promino, però ecco, c'è anche Boateng stasera, super ospite, poi Federica Pellegrini, poi c'è un ricordo di Musella sul quale sono state dette tante cose, no? Il giocatore del Napoli trovato morto in condizioni, sì, certo, circostanze non chiarissime, insomma c'è una toccante testimonianza della sua famiglia che insomma vuole evidentemente custodirne la memoria e scacciare molti dubbi. Io sull'Inter dico una cosa però, che sicuramente Mazzarri sta facendo un ottimo lavoro e non cambia dopo la sconfitta dell'altro giorno, però la partita dell'altro giorno, visto che viviamo anche di classifiche e di distanze e di obiettivi, ci dice con chiarezza che l'Inter comunque ha delle difficoltà, insomma che il miracolo è molto difficile, perché comunque i limiti tecnici di questa squadra ci sono e sono molto evidenti. Poi che Mazzarri riuscirà a tirar fuori il meglio da questa squadra non ci sono dubbi e si è già visto. Allora, Ettore viene a Tiki-Taka? No. Ma quando vuole. Sentiamo. Sì. Lo convochiamo dopo il traffico? Spettacolo. Ettore, dai, tonico. Tutti convocati. Gente, buongiorno, sono Ettore. Allora, io sono un interista dalla Madonna. Pronostico per domani Inter-Roma. No, voglio il risultato perché devo mettere su una cifra. Io faccio 500 sul pareggio. Non so se mettere 500 o 1000. Ettore, è andata male. Allora, a parte il fatto che io non ho detto che mettevo sul pareggio, la mettevo sulla vittoria. No, esatto. Ci sono le prove. Vabbè, comunque fa niente. Comunque ho recuperato perché un mio amico ha fatto un altro risultato e abbiamo recuperato quello che ho messo io. Ah, che siete? Un SPA? Che siete? Senti, un'altra cosa. A parte il fatto che io scelgo un tifoso, però l'Inter non meritava di perdere. No, tre fischi sono tanti, cioè mica ha perso 1-0. Dopo sono andato in bambola e dopo Guarini ha preso quel palo lì, vabbè, comunque pazienza. No, comunque io ho visto Ettore nel prepartita a San Siro, ci siamo incontrati, c'è stato questo momento garramba vero proprio. Senti, pardon, ma Ettore è vero o è Teocoli? di Milano. No, no, no, sono me. Senti, senti, Genta, digli a Pardo che mi deve invitare alla trasmissione. E quindi diglielo tu, vuoi, diglielo tu, vuoi, no? Però vieni, vieni quando vuoi. Stasera no, perché ti spiego, io conosco bene anche la Melissa, che quando era con Bobo l'ha portato un sacco di volte a Malpensa. Ecco, non, fatto... ecco sì, no, a Malpensa, non voglio sapere, non entriamo in particolari, perché comunque la vita... No, no, no, no, come lavoro, come lavoro, per l'amor di Dio. Allora adesso stasera con Melissa facciamo la convocazione. Quando è che posso venire? Ma guarda, adesso cerco di capire, perché noi non abbiamo il pubblico, però tu sei ormai parte integrante della famiglia, quindi ti chiamo dopo in grandissima serenità. Ettore è una rockstar assoluta. Grazie Ettore, ci sentiamo domani, Ettore. Domani. A domani. Ti voglio domani qui. Sentiamoci domani, stasera guardaci però, Pierluigi. Sempre ti guardo, certo. Cioè, no, ecco. Mandimi l'invito per la trasmissione. Va bene, va bene. No, va. Ma grazie Ettore. No, devi dirmi chi è. Questo è un tuo amico. Cioè questo no, è tuo. No, l'ho incontrato. No, dimmelo. Ma no, l'abbiamo sentito l'altro giorno in radio, l'ho incontrata. Io non ci credo, se è così è una superstar assoluta. Ma è una superstar assoluta, probabilmente. Comunque, voglio dire, l'ho visto sabato sera, prima della partita, ottimista, che aveva giocato la vittoria dell'Inter. Sì, però ha recuperato, Ha recuperato, perché un suo amico ha fatto una giocata, no? E qui non vogliamo sapere altro. Esatto. Senti, adesso ti saluto, però prima parliamo con Maurizio da Piacenza, Sì, sì, quando vuoi. Maurizio. Buongiorno. Dica. Volevo fare alcune considerazioni sul Milan. Io sono d'accordo che ha preso 13 gol, però se andiamo a guardare 5 ce li ha sulla coscienza completamente il portiere del Milan, e mi stupisco che nessun tifoso del Milan si metta a criticare un portiere che è inguardabile. Ieri l'unica parata che ha fatto l'ha fatta sul pallone, che è uscito di 2 metri in riva. Poi un'altra cosa, quando diamo via Flamini, titolare dell'Arsenal, una squadra che ci dà 4 gol in ogni partita, Maurizio, in ogni momento, però, noi siamo qui a rimpiangere Flamini, voglio dire che tra l'altro prendeva un sacco di soldi al Milan, però è vero che quando le cose vanno male possono sempre andare malissimo, però se il Milan si mette a rimpiangere un giocatore come Flamini, vuol dire davvero che sta messo male. Primo, secondo, colpa della fase difensiva, poi colpa della difesa, poi colpa di Mexes e di Zapata, poi colpa di Abbiati. Sì, è vero. È vero, tutto questo è vero, però vede come scendiamo una catena dal centrocampo fino a colpa del portiere. Secondo me non è colpa di nessuno in maniera specifica. Pier? Beh, io, allora, a parte che ho visto Flamini con l'Arsenal e mi ha fatto impressione perché sembrava un altro, ma chiaramente la spiegazione sta nella qualità in questo momento che ha l'Arsenal. È un sistema dove giocano tutti e quindi... Al Milan non funziona niente. Anche le caratteristiche di uno che non è un fenomeno come Flamini vengono fuori. Beh, insomma, io onestamente sul portiere credo che qualche responsabilità ci sia. Sì. E credo che sia un tema che, adesso non so se gli è stato dedicato il giusto spazio, poco spazio, però è un tema strisciante che sento quando si parla dei problemi del Milan. È tutta la fase difensiva che non funziona e Abbiati, diciamo che in questo inizio di stagione non ha fatto nulla per poter recuperare. Per cui secondo me il ragionamento ci sta, insomma, anche lì è chiaro che è una scelta di continuità rispetto al passato che fino a questo momento non si sta rivelando azzeccata. Poi sai, sui portieri è strano perché ci sono portieri che migliorano invecchiando, cioè un ruolo del quale appunto da Zoff in poi si può arrivare a giocare anche fino a 40 anni con una certa qualità, e ci sono crisi improvvise come quella che colpì Dida, come quella che colpì Giulio Cesar, che poi si è sicuramente ripreso. Però insomma, che Abbiati non stia semplificando le cose, certo, assolutamente così. Certo, come dicevano in quel film, potrebbe sempre andare peggio, potrebbe piovere. E sul potrebbe Milan, piovere, e sul esatto. Milan diluvia. Oggi piove, oggi fra l'altro piove, quindi diciamo esatto. Che... Ci vediamo stasera con Tiki Taka, cioè ti vedo io. E domani vieni qui, no? Con Ettore, sì, in taxi. Vengo lì, tutti lì. Vengo in taxi con Ettore, esatto. Adesso lo sento e vediamo insieme. Ciao Pier, a domani. Baci. Ciao. Ciao. A parte che non ha dato un pugno, era una contrasta, era una immarcatura, è sulla schiena, insomma, quindi simile a un pugno. Se volete dire che è un pugno, dite che è un pugno. di questi falli ce ne saranno 1000 dentro l'area e credo che poi non la faccia non l'abbia neanche toccata. Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso, sai, cattivo come adesso non lo sono stato mai. La sportività dura, la cattiveria in campo per prendere la palla deve essere giustamente esaltata e ci può stare, ci si dà la mano e ci si rialza. Questi episodi andrebbero puniti molto pesantemente perché non è calcio e non c'entra niente. Credo che comunque il calcio sia un'altra cosa e questi episodi vadano tolti dal campo. Ora almeno e dal pugno chiuso una carezza. Carmelo, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno, grazie per essere convocato. Volevo intervenire sul discorso Totti. Allora, Totti è un grosso campione nella Roma e per la Roma, perché nella Roma giocano tutti per Totti, compreso il pubblico, compresa la sua gente. Il nazionale ha sempre fallito, per cui sono d'accordo con lei nel dire che Prandelli poteva fare il democristiano, ma ha fatto il democristiano. No, ma aspetti Carmelo, allora, sempre fallito mi sembra una parola grande. Certamente se guardiamo i numeri fanno impressione, perché Totti che ha segnato tutti quei gol nella Roma, in nazionale ne ha segnati 9 in carriera, 9 gol. È chiaro che la Roma pende dalle sue labbra, è chiaro che tiene in mano l'intero ambiente. Però io non ho detto che non andrebbe convocato, cioè è un giocatore che io porterei sempre in nazionale, perché mi dica lei quale giocatore italiano più forte sicuramente esiste. Però il nazionale non ha mai dimostrato quello che dimostra nella Roma. Ecco, ma ce ne sono tanti, perché Del Piero cosa ha dimostrato in nazionale più di quanto ha dimostrato la Juventus? Anche questo è vero, come vedere, sono giocatori... sempre tutto riesce come vogliamo. No, ma quello che dico io è che ne sono convinto. Vinto, anche se il mio compagno di banco Pierluigi Pardo non è così d'accordo, cioè convocare Totti non è convocare un grande giocatore, un giocatore di straordinario talento che può essere funzionale, è convocare un circo mediatico che poi bisogna gestire, perché poi bisogna gestire questo circo mediatico, bisogna gestire 100.000 domande ad ogni vigilia di partita, ma Totti gioca, quanto gioca, come gioca, dove lo metti, sta in panchina, insomma non dimentichiamo queste cose. Poi è facile oggi 7 novembre a molti mesi dal mondiale dire beh lo porterei. Certo, vorrei vedere chi non lo porterebbe. Poi si tratta di gestire anche tutto questo circo che Totti si porta dietro, come è stato con Del Piero peraltro. GR poi di nuovo qui, 800 24 00 24, numero verde. Tutti convocati. Innanzitutto i miei complimenti, ancora nessuno che ha pronunciato la parola arbitri, 800 24 00 24, ma abbiamo ancora quarto d'ora o giù di lì, non dubito che questa parola verrà fuori. Il Milan va male, è vero, ma c'è sempre chi sta peggio, la Ferrari. Domenicali. Sì, è vero, alla fine dobbiamo riconoscere che dopo la pausa estiva, dopo aver fatto bene in Belgio, a Monza, a Singapore, oggi è stata una gara difficile dove, inutile negarlo, non eravamo competitivi. Eravamo insieme a Sauber, insieme a Mercedes, su quei ritmi di gara, mentre Vettel e Lotus erano sicuramente più veloci. Leo Turrini, inviato di QS e mio amico. Ciao carissimo, complimenti per l'allungamento della trasmissione. Grazie Leo. Si vede che funzioniamo alla grande con tutti i convocati. Noi sì, la Ferrari meno, Beh, allora Ferrari... Con perdono dalla Damas, come direbbe Maradona. No, ma molto semplice, mancano 160 giorni all'alba. Qual è l'alba? È fra 160 giorni, si corre il primo Gran Premio del 2014, sì, con Alonso e Raikkonen sulla stessa macchina. Ormai è chiaro che in questa stagione le prospettive per il cavallino sono Però Leo, lascia perdere questa stagione, io non so se vedere l'alba tra 160 giorni o vedere un altro tramonto. Tu immagini che possa essere la luce in fondo al tunnel, nel senso che quella del treno che travolge le speranze ferrariste incarnate da Alonso e Raikkonen. No, beh, adesso è chiaro che soprattutto in Corea si è vista ieri una gara molto moscia, molto deludente, perché nelle tre precedenti la Ferrari aveva sì perso, ma classificandosi seconda. Io ritengo che si debbano dire due cose. Se guardiamo all'economia di questa stagione, La prima è che la Red Bull ha con queste regole e con queste gomme un vantaggio aerodinamico strepitoso. Purtroppo Adrian Newey non vuole venire a lavorare in Italia perché 9 cani e come disse una volta Montezemolo che l'aveva contattato, in Italia non avete ville sufficienti per ospitare 9 cani, quindi noi abbiamo un problema che riguarda proprio i cani della signora Newey. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, che io capisco possa interessare poco perché siamo un popolo di calciofili, ma guardate che quest'anno nel mondiale di Formula 1 è successo per colpa della Pirelli una cosa incredibile, perché si è cominciati con un tipo di gomma con la quale fino al Gran Premio di Barcellona era Alonso che staccava di mezzo minuto Vettel, ve lo ricorderete, le prime 4 gare la Ferrari ne ha vinte 2 e Alonso ha perso le altre 2, una volta per un incidente in partenza proprio con Seb e in Bahrain per una rottura, il famoso DRS dall'ala posteriore, no? Se no le avrebbe vinte tutte e 4. Dopodiché queste gomme purtroppo non tenevano l'intera distanza, addirittura ci fu un Gran Premio in Inghilterra che esplodevano come mortaretti al San Paolo ai gol di Pande, hai capito? Ricordiamo, sì. Bravo. Allora a quel punto lì, per ragioni di sicurezza inoppugnabili e incontestabili, si è deciso di tornare alle gomme del 2012, esattamente come volevano i bibitari, che non toglie niente ai meriti di Vettel e della Red Bull, che con quelle gomme lì evidentemente sono più bravi, lavorano meglio e tanto di cappello. Ma visto che tu hai parlato tanto del Milan, è come se nel campionato di calcio a un certo punto nel campionato stesso si dicesse va bene, però dalla prossima giornata si gioca con delle porte più larghe oppure più strette o con il fuorigioco abolito. Insomma, è successa una cosa stranissima. Ho capito, Leo, però sono 4 anni che questi le suonano a tutti, quindi, quindi questo è vero, però il mondiale di Formula 1 sta diventando una palla terrificante. Io sono d'accordo anche su questo e infatti dobbiamo assolutamente sperare nel 2014 perché cambiano completamente le regole tecniche, tornano i motori turbo, si spera quindi che l'aerodinamica abbia meno valore e venga restituita più importanza alle potenze, in questo caso nei turbo, e anche alle qualità dei piloti. Voglio dire, non è un caso, so che tu non sei mai stato d'accordo, ma che la Ferrari abbia deciso di riportare anche su mia richiesta il santo bevitore a Maranello, perché come state vedendo anche in queste ultime 2 gare il biondino di Finlandia, il biondino è un mio idolo assoluto, sei stato tu, quindi sta facendo, sì, io mi dichiaro colpevole, l'ho anche anticipato durante l'estate, non ci credeva nessuno, non vedo l'ora che arrivi, anche perché Raikkonen, non lo sa nessuno, il suo primo periodo in Ferrari andava a giocare a hockey su ghiaccio a Fanano, sull'Appennino modenese, dove c'è un palaghiaccio molto piccolo, costringendo i meccanici della Ferrari a bardarsi da hockeyisti a giocare con lui, capisci? Ormai noi in Ferrari abbiamo una serie di interessi, come dire, esterni, no? Alonso vuole fare la squadra di ciclismo, Raikkonen pratica hockey su ghiaccio. Speriamo che la combinazione di queste passioni si traduca in una macchina in grado di battere i bibitari. In una macchina normale, cioè quella che Alonso vorrebbe per il compleanno. Però io non capisco su che cosa è fondato il tuo ottimismo. Mi parli di 160 giorni all'alba, ma ancora non capisco su cosa è fondato questo ottimismo. Io non voglio fare la parte di Allegri che dice il Milan sta andando benissimo. Adesso mi spiegherò o tenterò di farlo. Innanzitutto, siamo alla vigilia di una rivoluzione regolamentare. Di solito quando accadono questi cambiamenti a livello normativo è come rimescolare le carte del mazzo. Per dire, Schumacher con la Ferrari vinceva sempre fino al 2004, 2005 e 2006 una cosina da niente, vietarono i cambi gomma in gara e con le gomme che non potevano essere sostituite, la Ferrari aveva allora il fornitore Bridgestone, che non capiva come poter fare pneumatici che tenessero per 300 Gran Premi, Schumacher venne doppiato per tutto il 2005 dalla Renault di Alonso e non solo. Sì. Quindi qui adesso fanno, non dico la stessa cosa, ma qualcosa di paragonabile, perché tornano i motori turbo dopo un quarto di secolo, perché vennero eliminati dalla Formula 1 fine 1988, ci sarà una regola molto drastica sui consumi, cioè i piloti avranno un quantitativo prefissato di benzina disponibile e quindi dovranno calibrare, hai capito, potenza, rapporto velocità, eccetera, e le macchine saranno completamente diverse, non ci sarà nessuna somiglianza estetica a quelle di quest'anno. Quindi io dico, può anche darsi che abbia ancora una volta ragione il Cattopardo, cambiare tutto perché non cambi nulla e l'anno prossimo Vettel va comunque a spasso, ma speriamo in, in teoria ci sono le premesse per vedere qualcosa di diverso, Senti, ti confesso che mi sono svegliato col piede storto stamattina a parlare con te, mi ha risollevato la giornata, ti ringrazio. No, ma è un piacere per me perché io sai che sono un tuo grandissimo fan. Volevo dire anche una parola su Massa. Dilla. Che dopo 4 anni da devoto maggiordomo di Alonso, sì, adesso che gli hanno detto di farsi più in là come la canzone Sorelle Bandiera, improvvisamente prima partenza in 4 anni tenta di buttare fuori lo spagnolo. Ma guarda che strano. C'è qualcosa di geniale in tutto questo. Io vorrei parlare Massa all'ex sottosegretario Biancofiore, che lei aveva dato le dimissioni, poi si è dimenticato di ritirarle, che è l'unica che non fa più parte del governo. Massa più o meno è la stessa cosa, non voleva essere dimissionato, però era stufo di Alonso. E insomma, abbiamo visto anche queste, ci sono ancora 5 Gran Premi. Secondo me ce l'ha fatta un punare Alonso. Secondo me sì, e anzi io con Ettore, nostro ben noto ascoltatore, andrò a scommettere su questo. Leo, ti ringrazio, ti abbraccio. Grazie a te, buona giornata. Ciao. Leo Turrini. Ivano da Torino, 800240024, perché io voglio continuare a parlare con gli ascoltatori almeno per il tempo che mi resta, che sono 3 minuti. Ivano, buongiorno. Ciao. Ciao. Allora, senti, io devo parlare della convocazione di Totti. Sì. L'eventuale convocazione, perché secondo me non sarebbe giusta. Io sono abbastanza contrario proprio. Non sarebbe perché giusta io, perché? Io essendo juventino, no? Per la causa della qualificazione avevano dato 7-8 giocatori almeno alla volta. Una società come la Juve. No? Ne avrebbe dati 7-8 alla volta. Però aspetta Ivano, metti la maglietta nell'armadio. Metti la maglietta nell'armadio, sì, che la nazionale non c'entra poco. Ma io ad esempio Pirlo avrebbe potuto fare questa cosa, un campione. Avrebbe detto no, basta nazionale, aspetto che si qualifichi e poi magari ne parlo. Sì, no, allora se uno vuole andare va, non aspetta la qualificazione o vado quando mi parlo. Io c'è una cosa che non condivido, è questa, cioè se tu vuoi giocare, vuoi metterci le gambe alla faccia in una nazionale, ci vai e giochi anche in Moldavia d'inverno quando ci sono le qualificazioni, perché io queste convocazioni così, solo quando ci sono i grandi eventi, non queste convocazioni non le sposo. Poi, detto questo, e mettendo da parte tutte le magliette di club del caso, a un giocatore come Totti non rinuncerei mai a prescindere. Non so. Per carità, però anche Pirlo, capito? Cioè, anche Pirlo avrebbe potuto fare la stessa cosa, è quello che dico, un campione lo conosciamo tutti. Quindi non c'è bisogno di conoscerlo. Avrebbe detto anch'io, cioè che facendo tutte queste partite la Juve avrebbe voluto rinunciare alle qualificazioni nazionali e eventuale mondiale, puoi farlo. Sì, ma quello che avevi detto. No, ma va bene, va bene tutto quanto, Totti all'età che ha, Pirlo non ha mai detto addio alla nazionale, è sempre stato tra i convocati di Prandelli. Quello che dico è che si sta facendo un sacco di panna montata il 7 di ottobre sulla scorta di un momento meraviglioso della Roma e di Francesco Totti, cosa che non mi sembra non mi sembra assurda, perché Totti comunque non è la prima volta che gioca a questi livelli per un periodo comunque lungo. Ripeto, siamo a 7 ottobre, i mondiali sono la prossima estate, quindi secondo me tutta questa è un sacco di demagogia, Prandelli compreso. Franco Piantini, autore di questo programma, Roberto Scaltretti in regia. Ovviamente ci sentiamo domani alle 14 quando sarete ancora tutti convocati. Questo Raikkonen è uno straordinario, lo vedi anche negli spot, sì, che si, sì, fanno fare, no? È meraviglioso, che dice, c'è il pescatore, non so se l'hai visto, no? Cosa fai qui? Holidays? Sei qui in vacanza? No. No. Business? Sei qui per affari? No. No. Friends? Sei qui per amore? No. No. Why are you so far away from home? Allora perché sei qui? E lui risponde, I have no idea, no? I have no idea. Non lo so.